signore e signori, Gigi Gigi Gigi Gigi Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ci ritroviamo tutti i giorni qui alle 18 per cominciare la nostra camminata quotidiana. Vai, vai, vai. Dov'è il vocalist? Ci sono qua. Che dici? Ci sono qua. Lo cazzo, l'hai trovato. Se volete mandare le vostre dediche, il numero di SMS è 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Sono Marco Tamarro. Marco Tamarro. Super fedelissimo della Magica Torino. Potresti mettere un pezzo martellino, così provo l'impiantino che ho appena finito di montare. Certo. Certo. Certo. Certo. A cosa? Un saluto a Giorgia. Siamo Silvio, Chicco, Manda e Mattia. Ok, ci siamo tutti. Da Imperia. Ti volevamo chiedere se ci facevi sentire qualche cosa di Tamarro. Perché? Perché? Perché? Perché? Tamarria, portaci via, via, via, via, via, via, via, via. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Batte, batte, forte. Il cammino di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Batte forte.

volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Siamo Luana e Angelica. Ci suoni l'amour toujours? Sono Luca. Dedico l'amour toujours al mio amore Emanuela di Rieti. Ti amo. Sono Ornella da Torino. Vorrei dedicare l'amour toujours a Lorenzo, perché verranno ancora mille di questi giorni. Lunga vita a Gigi Dag. Voglio dedicare l'amour toujours alla mia unica ragione di vita. Elvira, ti amo. Edwin di Ravenna. Leggetelo, vi supplico. Sì. Sono Davide da Torino. Vorrei dedicare alla mia cucciola l'amour toujours, perché tra pochi giorni festeggiamo 2 anni splendidi e indimenticabili. Ti amo tanto. Sono Roberto da Inzago. Vorrei dedicare l'amour toujours a Marilena e dirle che è la mia vita e che la amo da morire. Sono Carmelo di Torino. Tanto tempo fa ho intrapreso questo fantastico viaggio insieme a te. 2 mesi or sono, mio papà ha lasciato questo mondo per volare in alto. Sono smarrito. Per favore, riprendi la mia mano affinché io possa riprendere insieme a te questo fantastico cammino. Musica, maestro, musica assordante, per chiunque continente, ma che sa tanto amare, chi ormai può soltanto volare. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Gigi D'Agostino, musica che unisce, musica che unisce. M2O.

I'm on beef. Oh, I'm on beef. Oh, I'm on beef. Oh, I'm on beef. Oh, I'm on beef. Oh, I'm on beef. Oh, I'm on beef. Oh, I'm on beef. Oh, I'm on beef. Oh, I'm on beef. Oh, I'm on beef. Oh, I'm on beef. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che pesta. Batte, pesta, batte, batte, pesta, pesta. Ciao Gigi, potresti dedicarci la passion? A Olia. Un bacio da Terry e Mary da Taranto. Bella questa cosa qua, eh? Sì, sì. Sono Deborah. Volevo dedicare la passion al mio grande e unico amore Marco. Marco, ti amo dalla tua bambola. Viaggio. Oggi 2 ottobre la mia sorellina Martina compie 18 anni. Le dedico la passion. Auguri Martina. Ciao Gigi, sono Lancillotto da Palermo. Sto ascoltando il cammino invece di studiare latino. Tutto a posto. E siccome me ne frego di tutti e di tutto, bravo, mi dedico bla bla bla. Sono il Gallo da Piacenza. Martedì compio gli anni, ne faccio 20. A 5 anni muovevo i primi passi a tempo della tua musica. Dai, dai. Dedicami per favore bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla. numero per gli sms è il seguente. Vai. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Se hai l'impulso mi scrivi, se no. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Sentieri percorriamo tutti insieme ogni giorno alle 18. M2O, musica allo stato puro. Dedicare alla mia cuginetta Annalisa baci e abbracci. Mauro da Roma. È andato a finire il vocalist. Vai un po' con l'info. Questo weekend il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 7 ottobre alla discoteca Max, Bressanone, Bolzano e domenica pomeriggio 8 ottobre alla discoteca Nord-Est, Caldogno, Vicenza. Per le informazioni dettagliate, chiappate le dita e digitate www.gigidagostino.com. Capito, com? We'll be right back. è il cammino di Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O, mica pistacchi, stighecchi. Like a river that falls to the sea, this is the way that it has to be. You and me, you and me. Like a sun that shines only, this is the way that it has to be. With you I wanna share. Roccia 89 di Messina. Vorrei far ascoltare la canzone Natale al mio amico Gianluca. Ecco qua, va. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? just started rapping. Vorrei dedicare Pesticida da ad Alessandra, Dra, Susanna ed Eleonora. Per tutti i balletti di st'estate. Vi voglio bene, ragazze. Legge, legge, legge, legge, legge, legge, legge, legge. Cammino di Gigi D'Agostino, il tuo antidepresso. Rimani connesso. M2O. Forza, sulle mani. Tutti su, dai, dai, dai, dai. Da Ponte a Elsa. Ah. Puoi dedicare le tue canzoni a due ragazze straordinarie. Certo. La dolcissima Nancy e la seducente Ilaria. I drive around all day long, I listen to radio songs. I'm taking what you become, what you want for your life. I stop and talk with you.

La differenza la fa chi balla. Chi balla. Chi balla. Chi balla. Chi balla. Chi balla. Chi balla. Chi non si muove una palla. È vero, è vero. Vorrei dedicare lo sbaglio a Geppetto. Voglio dirgli che non importa se in passato con me ha sbagliato. Sbagliare è umano. Un kiss mega galattico da Fabiola di Cinigiano. Gigi, sono Elvis. Mi fai sentire la canzone di Pinocchio? Sì. Thank you. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri.